Permettetemi di tornare ancora una volta sulla figura del nostro sindaco, che ci volete fare. Avrete notato come, fedele al principio per cui nel suo campo di attività l'unica cosa che conti davvero sia far parlare di sé, l'individuo nella scorsa settimana sia riuscito a far breccia in una pubblica opinione distratta con la ben nota trovata su come risolvere il problema dei graffiti, cioè delle scritte ad aerosol che a suo dire imbrattano i muri della città. Se ne è scritto parecchio sui giornali, ne hanno parlato gli ascoltatori di Radio Popolare in un paio di microfoni aperti, mi sembra persino che ieri si siano svolte un paio di manifestazioni in merito. Ecco, io non vorrei offendere nessuno, ma francamente non credo che l'argomento meritasse tanto cancan. Da un lato la proposta non mi sembra particolarmente originale, perché l'idea di ridurre un comportamento sociale a problema d'ordine pubblico da risolvere in via giudiziaria mediante l'elargizione di ricompense a chi ne denunci i responsabili non è certo inedita nel nostro panorama culturale e rappresenta uno sviluppo neppure tanto creativo di quella pratica dell'incoraggiamento della delazione di cui da anni si fanno forti in perfetto accordo classe politica e magistratura. Il sindaco di Milano è notoriamente un uomo di destra, si considera, credo, alternativo rispetto al modello politico vigente su scala nazionale, almeno a svolgere questo ruolo va delegato il suo principale, ma quando si arriva al dunque ricorre agli stessi identici strumenti di cui si serve da anni la sinistra istituzionale, e, in altre parole, non ha inventato nulla di nuovo. In secondo luogo non credo proprio che la proposta della taglia antigraffitaria avrà sviluppi concreti. E non solo perché presenta cospicue difficoltà applicative di ordine organizzativo e finanziario, credo. Il fatto è che ci sarà bene nello staff del sindaco o in quello di padron Berlusconi, ci sarà bene qualcuno abbastanza sensato da consigliargli di lasciare perdere, di tenersi i graffiti e di ringraziare il suo Dio se a tracciare i graffiti sui muri passano il loro tempo i giovani avversori milanesi. Vedete, io non ho niente contro le scritte sui muri. Io ammetto di ritenere, da signore anziano qual sono, che un muro di solito stia meglio al naturale, ecco. Ma penso che a volte la necessità di comunicare richieda qualche sacrificio di indole estetica. Per denunciare ingiustizie o soperchierie, per chiedere la liberazione di qualcuno ingiustamente rinchiuso, non so, per esempio, quella di Patrizia Cabeddula, ricordate, no? È la postina di Radio Popolare, quella che è in galera da 3 anni senza uno straccio di prova, per esprimere una protesta che altrimenti resterebbe inespressa, ben vengano quante più scritte possibile tracciare. E persino quelle volte a incoraggiare con pagine sportive o a sottolineare le pulsioni sessuali dello scrivente, magari inneggiando al pudendum muliebre, mi entusiasmano meno, ma che volete, non credo possano fare più male che tanto. Ciascuno esprime quello che può esprimere e deve poterlo esprimere. Ma di nessuna di queste scritte mi pare si possa dirsi che sia un graffito. Da quanto ho letto, i graffiti, le manifestazioni di aerosol art che proliferano sui muri di questi tempi, sono tutt'altra cosa. Sono opere d'arte, appunto. Segni, per così dire, gratuiti, arabeschi, che altro non significano se non se stessi e che altro non esprimono se non la volontà di tracciarli da parte di chi vi traccia, la sua capacità di invenzione formale e soprattutto la sua ostinata volontà antagonista. Soprattutto la sua volontà antagonista, almeno nelle teorizzazioni che più comunemente si sentono in giro. E sono queste teorizzazioni quelle a cui vi confesso faccio una fatica terribile a consentire. E ci volete, a me il 99% dei graffiti in opera non sembra abbia granché di artistico. Quando non sono semplici detriti, alfabetici o figurali, non importa, mi sembrano organizzati secondo dei moduli ripetibili, dei semplici moduli ripetibili che infatti vengono continuamente ripetuti. Ammetto che questo potrebbe essere un giudizio limitativo, il giudizio di un filisteo che di fronte a un'arte che non capisce si rifugia nella denigrazione. Giudicare l'arte non è il mio mestiere. Ma il problema forse è un altro, è quello di quanto si possa considerare antagonista una prassi che, per ben che vada, sfocia in una specie di sublimazione di tipo estetico. È una sublimazione che tuttavia non porta all'opera d'arte, che in sé potrebbe essere benissimo antagonista, perché rinuncia a priori alla ricerca dell'individualità. Si sottomette buona buona all'accettazione degli schemi invarsi, si consola al massimo con un elemento non artistico, cioè l'affermazione della propria illegalità, che a questo punto diventa piuttosto innocua. E che volete, come modo di essere antagonisti a me sembra un po' facile. Qualcuno ha sottolineato nell'attività dei graffittari, dei writers, come si preferiscono chiamare, la volontà di appropriarsi segnandolo di un territorio da cui altrimenti sarebbero esclusi. In questa appropriazione naturalmente è implicito l'invito ad altri gruppi o soggetti concorrenti a tenersi alla larga. Si è fatto l'esempio indubbiamente suggestivo dei predatori carnivori, no? Che anche allo stato di natura segnano con vari mezzi il proprio territorio di caccia. Sarà. Ma capirete che una cosa è segnare un territorio in cui si tende a svolgere una certa attività utile col fine di informare gli estranei che una loro intromissione non sarebbe gradita, e un'altra e segnare uno spazio per affermare di essere l'unico soggetto autorizzato, stringi stringi, a segnarlo. Il rischio che si corre in questo caso è quello dell'autoreferenzialità, dell'identificazione dell'antagonismo con la pacifica e indisturbata contemplazione del proprio ombelico o di qualsiasi altra parte più o meno contemplabile della propria anatomia. E se io godessi di potere, ipotesi assurda, se godessi di un qualche potere su un territorio, se per esempio fossi il sindaco di destra di una grande città post-industriale traversata da mille tensioni, afflitta da mille problemi che io non so governare, di nulla potrei auspicare di maggior cuore che il fatto che la gioventù antagonista di quel luogo si dedicasse indefessa alla contemplazione del proprio ombelico. La cosa mi potrebbe costare una certa somma in vernice, ma chissà cosa potrebbero combinarmi quei bravi giovani se non avessero da graffittare. Ma che graffitino, non si impiccino di cose che non li riguardano, come il modo in cui io gestisco il potere. Se poi vi sembra che questa sia un'interpretazione capziosa e malevola, siamo sempre qui per discuterne, ma non possiamo mica far sempre finta di essere d'accordo, no?